che? Mamma mia, come sto? Bene, papi, da adesso. Adesso sì. Bello, vedi? Non vedo, cazzo, poi la parte in banda laterale, boh. Devo passare tutti su 23 per fare delle prove con Graziano. Dice che non li funzionava, invece funziona perfettamente. Certo. E invece che già lo sentivano tutti e già va bene. Mi stavo dicendo che li deve mettere un interruttorino piccolino, li metti a quel microfono per scaricarsi la batteria. Sì, no, ce l'ho intanto Gianmarino. Di quelli piccolini alle vetta. Glielo metto dietro così la sera disattiva la batteria, se no ogni volta deve togliere il tappo, togliere la batteria, non capisco. Bastato che lo apri, no? Controlla le saldature del filo dell'alimentazione, può darci pure che sia qualche saldatura fredda pure, capito? Ma io lo metto ugualmente l'interruttore, capito? Però controlla lì, perché dice che c'è il filo aggiunto, evidentemente è stato magari aggiunto magari per essere più lungo a metterci l'attacco delle batterie, capito? Per cui se c'è la nuova devo mettere direttamente nuovo il filo per non stare con questi fili aggiunti, capito? E tu li metti come si chiama, il torrettino piccolino ed è tranquillo per sempre, capito? Gliel'ho detto di portarmelo, se gli ho detto se me lo porti oggi, domani mattina forse te lo prendi. Però era stanco, stava rientrando, così che non so quando me lo porterà. Beh, già è strano la cosa, è strana perché io per esempio nell'MB4 ce l'ho da un bel po' ormai questa batteria e non si scarica. Strano, o sto facendo massa al filo da qualche parte sicché gliela sta scaricando. Ma io pure ho pensato a quella, o c'è qualche saldatura a fredda e allora c'è la dispersione, capito? Perché io sono due giorni, più di un anno che non li cambio il microfono mio, capito? Io ho tre, quattro, nove volte, mai non ho cambiato nulla, più di un anno ci sono. Non ho consumato, mai. Anzi, le avevo già comprate le batterie nuove per sostituirle, però se sono buona cosa mi cambia a fare, capito? Tutto lì, capito lui. Ok, stavo dicendo lui, ma ancora c'è quella camera dell'Izza che è ancora in FB? Ci devo guardare, sto mandando delle foto via posta. Ci devo guardare, c'è una dive, ho visto su, dove? Su Subito mi pare, qui in Sardegna, una camera ecco dive. No, l'ho visto quello della dive ieri, l'ho visto ieri sera. Per cui no, è preciso da quello che ho io, capito? E no, per 90, lo stesso preciso a quello che ho, capito? No. Ne vorrei un altro diverso. Ce n'è uno bello, no, per 90 a stesso, che ti danno anche il microfono insieme alla camera, però ripeto, non so se li hai visti. Ce ne sono una cattassa, ce ne sono di quelli in camera, capito? Col microfono senza microfono. Certo, e poi c'è anche il livello pure, ci sono, capito? Ce ne sono belli, però vedo un po' se quello dell'Inter che c'è ancora. Io stavo guardando di sera, non mi è venuto fra le mani, non l'ho trovato. Può darsi che tu riesci a trovarlo, a vedere un po' com'è la situazione, capito? Ti sto guardando in questo momento. Dai, così che dopo magari l'accendo io pure e lo guardo io pure, capito? Ti aspetto che l'accendo io pure, vediamo un po'. e dopo mi dici dopo se lo trovo. Allora, da là Inter, Inter non ci sono microfoni, c'è la camera, ecco, però è dal Regno Unito. Dal Regno Unito, Regno Unito, microfoni non ecco. Della Intec, vediamo un po', c'è qualcosa in Italia. E lo sto facendo anch'io il computer. Ma qua c'è un po', tarda un po', nonostante io svuotato tutto, già è più fretta adesso, prima era troppo lento. Adesso lo sto facendo anch'io là. Sto cercando. Ma in Italia era? Cos'è? In Italia? Quale? Quella che hai visto lì? Dall'Inter che non lo so dove l'hai visto tu. Quegli altri mi sembra che c'è in Italia, però è lì bisogna è forgiacca, ce ne sono una catastra, ce ne sono. Mi aspetta che lo cerco su coso, su Google. E poi su quelli lì sono nuovi, capito? Adesso vediamo un po', quello dell'Inter che è nuovo era, ho usato. Chi l'ha vista? Dopo quello dell'Inter? Quel giorno, l'altra volta me l'hai detto tu che ce n'era uno dell'Inter che... così che ho detto, no, non mi interessa, te l'avevo detto. Allora, sto cercando, ce n'è una, se c'è ancora... No, c'è anche quella delle... come si chiama? Delle Midland. Anche quella no, non la voglio assolutamente. Se troviamo quelle dell'Inter che quando la vedo, se mi piace la ordiniamo, se no guardiamo quelle altre e quegli altri che hanno il microfono in dotazione. Ci sto guardando. Ci sto guardando su Facebook. Ehi, Porrogeri, ci sono. Io ieri sera mi sono messo e tu non c'eri, e per cui ciò ce l'avrete ieri sera in quella pagina era, capito? Però ci sono e staccaccio, però non so se erano in Italia o se erano fuori, non lo so, capito? È quello, perché nel Regno Unito ce ne sono. Boh, ogni tanto se mi rimane là. La spia accesa, la portata accesa. Adesso è accesa, beh, strano, Sì. Ogni tanto lo fa. Sì, le ho telefonato proprio ieri mattina, Giomarino. Gli ho telefonato ieri mattina, mi ha detto non si preoccupi, lei spedisca tutto e poi ti dà il numero di tracciabilità. Vabbè, lui, sto sentendo, si è ripresa, se già c'è la scatola ancora. E glielo mando indietro e per cui no. Vedo un po' tu e lascio fare tutto a te, dai, vedo un po'. Che tanto io se me la lascio ce l'ho perdo, invece se riusciamo a tirarne qualche cosa ce lo dividiamo, non va bene? E tutto lo recuperiamo, tutto più la spesa di spedizione che usiamo per mandarlo, tutto, così mi hanno detto al telefono anche. No, vabbè, ce lo dividiamo, dai, esatto mio, ormai è come l'abbia perso io, capito? Eventualmente adesso se troviamo quella dell'Inter che ho un'altra che mi piace, me la ordino un'altra, capito? Me la chiedo in campagna, capito? Così che una ce l'ho quella della Galaxy, è quella che ci ho detto, che adesso va benissimo. E adesso lo voglio trovare un'altra per portarla in campagna, capito? E per cui se troviamo quella dell'Inter che è meglio ancora, dai. Sto cercando dell'Inter. La sto cercando proprio lì su eBay. Vediamo un po' se c'è. Però no, cosa dividiamo? Cosa dobbiamo dividere? Niente, non dobbiamo dividere. Sto scherzando. Assolutamente, io gli ho detto, quando domani se vuole vendere quel microfono lo faccia sapere prima a me, prima di prenderlo a qualcun altro, e quello mi piace un bel. Ah, quello che ho preso io. Esatto, quello che c'è in campagna. Questo mi piace un bel. Se un domani decidi di venderlo, mi raccomando, se lo fa sapere prima a me. E quello, no, lo do per la ragione, grazie. Quello era il microfono che mi avevo dato in dotazione la ieri elettronica quando avevo preso il Saturno Echo. Mi aveva dato il microfono manuale originale suo e più mi aveva aggiunto questo preamplificato l'M600, che è una cannonata, e no, quello gli hanno dato proprio assolutamente lui, capito? Però ce n'è uno, quello che deve fare, e non mi ricordo chi era, sto cercando di fare memoria, chi è che ce l'ha precisa, il mio, che a lui non gli serviva una volta, ma vorrei vedere se lo volevo. Ho detto no, ce l'ho, cosa me ne faccio? Sto facendo memoria per un po' chi è, se mi ricordo mi telefono e così che lo prendiamo. Ma quel modello è? Eia, casa l'M600, è l'M600 dell'Intec, capito? C'ha anche l'Echo quella lì, capito? Può camminare a 9 volt e a 12 volt pure, capito? Se non c'è la batteria, attacca a 12 volt e funziona anche a 12 volt. Più c'è il monitor, ti mette le cuffie, quando parli ti senti se stai stato bene, se stai stato male, capito? No, è bello. È bello, io l'ho avuto poi quello tanti anni fa. No, è un bel microfono, capita. Allora, sono sul sito dove mi hanno indirizzato tramite Google. Vediamo un po'. Allora, ormai passiamoci a 10, dai, così qualcuno deve fare chiamata qua, tenere una portante, non va bene, dai. Ma a me che avrei 10. Allora sì, che lo fai cadere lì, c'è. E va al 23. Ma io al 23. E ce l'hanno loro a quanto pare. Ah, eccola qua. Camera Echo, eccola qua, Intec con lo smitter. Questa c'ha lo smitter però, C'ha lo smitter, due pomelli e il modello Multi Effect Chamber. Camera Echo, generatore multinota di Roger Bibi per apparati CB usata ma in ultimo stato. Foto, infatti, adesso non c'ha niente. Con lo smitter 75 viene. 75, ma nuovo è? Ah, usata ma in ultimo stato, c'è la foto, c'è tutto. La IL elettronica la vende, la centro elettronica. Ah, la IL elettronica, ho capito. Era stato guardato io la IL elettronica ieri, ho guardato la cosa l'altro. Media Globe, mi sembra che c'è anche il Media Globe, non mi ricordo bene. Allora, il modello è Intec, se lo vuole scrivere su Google così la vede lì, è H940. Allora, l'interruttore per accendere, e più la manopola per regolare, tutta una e oppure due in una. Una e l'altra regola il volume. Ah, ecco. Oh, sì. Ok, e ne vuole 75. Che costa di più? Quanti? È l'apparecchio grande sto usando, il 4,50, non me l'ha fatto mai adesso, però ogni tanto si mi rimane la portante inserita. Vedi, adesso è inserita, vedi? E devo spegnere per togliere. Vino. Ma tu già lo copri qua. Sì, qualche altro canale. Adesso faccio un giro, vediamo se c'è qualche canale più silenzioso. Ma... Certo, capito. Ti apri, capito. Questa soprammurazione in FM passa, li senti anche in AM, capito? Quello è fatto. Non è un po' se... 25 è più libero, più silenzioso. Ah, io vedo... C'è passato. Allora, Ru, cosa facciamo? No, già ha risposto Gabino. Cosa... Boh, basta, guarda... Aspetta che cerchiamo un altro canale più libero, allora aspetta. Cazzo. 30 mari 36. No, troppo fracasso il cielo. E in effetti sto prendo. A che non si andando, non è un caso. Tocca. Ehi. Ehi. Centro unica. Centro. Questo smitter è per conto suo. Qua come radio Super 5 di lusso, a bomba. Net, N, E, Napoli, Empoli, Torino. Adesso sono 40 canali hai. Bene lo stesso, ho abbassato il sighi e ti ascolto bene lo stesso. Mette elettronica, no, centro elettronica punto, metti il punto net, anche schiacciando scrivendo centro elettronica lo trovi senza bisogno di mettere il punto net. Ok, guardami il segno. Vedo un po' l'antenna, se sta andando ancora bene. Buon passaggio. Vedo un po', 1-3, 1-3, com'è il segnale? Antenna canale a pesca, sto usando, fai da me. Mi sta arrivando il radio Super 5, Luca e Drago. Positivo Luca, positivo, sarà che sono nel punto buono io, però mi sta arrivando la vettura che ti ho detto. Non... ho fatto capito, cazzo, però questi qua, questi americani, sono una cosa incredibile, eh. Anni fa non c'erano questi qua, io non me li ricordo. Stazione radio Super 5 con lecca lecca di lusso. Il segnale sicuramente è forte, ripeto, non posso darlo perché questo smitter è avaro. E tu pensa che chi mi arriva, chi mi dovrebbe arrivare alle 9.30, così mi arriva a 7, sì, 8. È positivo. E non c'ho l'antenna che uso sempre, ho quella corta, ho l'antenna corta, va a 70 centimetri, che è quella bimanda, che oggi quella lunga qua a Porto Torres. È un po' un casino, c'è cioè un ponentaccio da paura. Ponente, mi sembrava maestrale per come mi stava, per come stava oscillando l'antenna. No, negativo, è ponente dritto, con freschiera, bella tesa. Sì che è male agitato, così è. Positivo, a mare di fuori ci sono i cavalloni bianchi, bianchi, bianchi come le pecorelle, si vedono in profondità che sembrano tante pecore al pascolo. Sì, sai, però dopo per entrare in Eva, picca, lui ha sempre agitato questa madre. Chiamami, che mi hai trovato là? No, non l'ho trovato. Centroelettronica.net. Oppure metti punto centro elettronica e lo trovi subito. Punto elettronica e lo trovi subito ugualmente, no? Sì, sì, centro elettronica, tutto attaccato, non c'è da separare nulla. Sì, a te. E Gianni dottor Rudo, dove è Gianni? Non so se doveva uscire o che cosa. Antonio ci sei? Galvino Joker da Portotorres ti chiama. Niente, lui non c'è neanche Antonio. C'è nessuno. No, c'è nessuno, non c'è nessuno. Sì. C'era un ragazzo che lavorava con me, un ragazzo. Avrà lui 47 anni, credo. Faceva piazzare i punteggi con me, quelli a motore, a tralicci, e di portatore stesso. E come si chiama? Aspetta, si chiama... Che fai, me la metto un nome? Mica un tipo alto, Ma non sarà coso, Alessandro si chiama per caso? No. Adesso mi viene in mente il nome, porca miseria. No, non si chiama Alessandro. Come sta ciabattina lui? Che ho io, cosa ne pensi? Cosa? Questa ciabattina che mi stavo facendo provare, cosa ne pensi? Si sta andando alla grande. Alla grande sta andando qua. Dove sei il proprio portatore? Ma in casa sì, o in macchina? No, sono in macchina, sono alla chiesa di Mare Lontano. Ah, e la Puglia. Grazie di lusso, di lusso. Fortissima. No, già è buona. Già è buona, è una ZG modificata. Adesso me l'hanno fatta avere stamattina. Sto vendendo un BQ 131 nuovo, il modello quello Smith, però non che tu cercano quello Smith nuovo, non ha neanche un graffio, l'ho messo anche su subito.it. e quanto la stai vendendo? A 60 euro sarà, ma è nuovo. Ma lineare sì? sì, BQ 131. E quanti va a te? Dovrebbe essere intorno ai 150, mi sembra, perché ti dico le caratteristiche giuste in manda laterale anche. Ma in AM o in MFM o in ASS? No, c'è MFM, CB, aspetta che ti dico subito. Oh no! Veia. Oh no, ho trovato, va, fa fuffia, boh. No. Per gli oggi mi fai fare qualcosa. Quella faccia. Vieni, tu apri solo Skype e poi digiti di qua. Clicchi direttamente sui link che do io tramite Skype. Sai che non so fare questi passaggi io già. Avendo questo Skype e io ti qui in modo tu. Dai, niente. Perché quella è già... un attimino. Allora, stavo cercando il mio... TV, eccolo qua. Che è allucinante? Ma mi vendono certi attrezzi allucinanti. Sì, in AM da 150 watt. Luca, Elia. Scusa, ho tempo la macchina un secondo. Quanto dura in AM? 100? 150 di picco, non di più. Come il 747 per caso? Beh, questa è da casa, non è da macchina. Ah, ho capito, ho capito. No, mi interessa per macchina. No, questa è per casa. È una cappa. C'era il soffitto, ha chiuso dentro la scatola. Chiuso dentro la scatola ancora. Ho capito. E certo, ormai tutti in casa si stanno mettendo quelli da macchina, perché in effetti sono più piccoli, e si chiede. Ho ordinato la 2001 da Fusaro, due settimane fa, non è ancora arrivata. L'antenna. Si basta prendere su internet direttamente. Ma mi veniva anche più cara, perché costa 50 euro più 12 di spedizione. Da Fusaro mi viene 76 euro, non l'ho presa, ma se avete un problema vale di lavoro. L'antenna BV 2001. La stavo cercando, antenna turbo 2001. Vediamo un po', andiamo direttamente su eBay, i negozi che ci sono su eBay, cosa, a quanto la danno, dice a vedere. Vabbè, su eBay non c'è. Aspetta un attimo. No, ho guardato, sono 50 euro. Beh, i negozi sempre, la devi comprare sempre dal negozio, no? Allora, Silvio, Turbo 2001, 59 euro, bene. Poi c'è la Turbo 3000, che mi costa 49. No, Lamb 2001 Turbo. Sì, 59 viene. 59. Ho capito. 59 da FLQ elettronica. No dai, ormai l'ho ordinato a Fusaro, la ritira lui, però cazzo quanto è lungo. Ah guarda, ormai io sono comprato solo da internet, dai negozi direttamente, intanto ti mando una fattura per la garanzia e non sto lì a fare tutti questi giri. Sicché avrei lasciato anche qualche acconto, così è. Negativo, niente a conto. Devo lasciare un secondo che entro il Tourist Market. Fai. Non fermi di buttare. Dai, bene, ce l'ho, però non mi ricordo dove l'ho messo, che non mi ricordo più. Infatti, forse l'ha presa la cosa, mi ha risposto. E a tutti i ecco. Comunque, vedremo là. Tanto se lo ordiniamo sotto le feste, capito? Ebbene, intanto adesso cosa? La papa, se vuole questa, però bisognerà contattarli in modo tale che non la vendino, perché hanno solo questa qua, di questo modello. Ma solo quel modello c'è. Aspetta, ci guardo. Perché ce ne sono che c'hanno i bipi pure, c'hanno. O quella dell'Izza, che mi sembra che ci abbia anche i bipi pure, c'hanno. Sì, questa c'ha il bip anche. Avanti! Buonasera, Luca, buonasera, Cattolino Maria, e a tu, ci hai trovati, ci hai. Ah, Giovanni, hai trovato. Tato! Mezzi rende il cazzo che ho fatto della bottante, rimane PCC inserito, cazzo. E allora per spegnerlo tocca spegnere l'apparecchio e riaccenderlo. Non me l'ha fatto mai. Mi sta facendo questo difetto. Eia, arrivare la, a momenti, lo fa a momenti, lo, per esempio adesso non lo sa, beh, adesso c'è, vedi? E c'è che si blocca il, come si chiama, il box, so. Sì, è la, le, il tassino del box che rimane acceso e allora tocca a spendere, boh. Ecco, non ce l'ho spray, e poi all'interno ma qua è, cioè, fa aprire con sapparecchioia, e come fa? La baracqua, e vabbè, è strano, non me lo faceva mai, da ieri l'ha cominciato a farmela, boh, perché hanno lasciato il, quando lo hanno riparato, hanno lasciato il, l'attacco senza stringermelo. E allora io l'ho stretto, evidentemente ho girato troppo e ho fatto qualche cosa. Boh. Siccome c'è Gabino da Porto Torres, non riuscivamo, capito, a tirarlo fuori. Sì, la verità, che stavamo cercando donne. Hai parlato insieme? Hola. E penso che ci sia Gabi. È entrato un attimo al negozio. A momento lo sento bene, a momenti lo soframudono, ma a momenti mi arriva bomba, Ah, ho abbassato due fighieri, ne ho messo due, e lo sento benissimo, come una telefonata. Ma io sto provando questo apparecchio stasera, vedo un po', perché non accendo quasi mai, e lo sto facendo scaldare un pochettino, ma mi sembra che mi sta rompendo, Prova a resettarlo. Io sto usando un MUBI con il MB40, con l'MB4. E mi ero scoppi lui però, va benissimo, non aumentare l'eco perché siamo vicini, così che non si capisce molto, poi si aumenti, lasciala così che va a bomba. Sì, col baracchino, sì. Ciao a tu. Grazie, coscia bene, ciao. Oh. Oh. Sì, con lo smitter c'è solo quello. C'è solo quel modello lì in giro su internet per il momento, sicché bisognerà contattarmi prima possibile, credo, Gianmario, perché se poi se la vendono, a quanto pare, con lo smitter, senza smitter viene una camionata, però ce n'è anche un'altra dell'Alan, piccolina, ma no, neanche a paragone. No, quella lì no. Cazzo, ne ha visto un bel, forse nel Regno Unito, poi quegli altri che ho visto io era il Regno Unito. Ma io penso anche lì si possono acquistare, lì, e costano anche poco quelle lì, 45-52. Non lo so, se la vuoi prendere lì, se la vuoi prendere lì si prende lì. Vediamo un po', dai, non ce ne è fretta tanto, e poi si la prende, mi capita in cuffia, io devo insicchiare. Pregatene. Vabbè, dai. Adesso ce l'andiamo a mangiare lui, eventualmente, dai. Domani, boh. Domani mattina accenderò, sì, però dopo a pranzo non ci sono, tutto il giorno, dai. Che sono fuori. Ma ora ci sentiamo, ok, tu. Ci sentiamo allo stesso momento, domani non c'è problema. Dai, buonasera e buon tutto, ci sentiamo domani. Ok, d'accordo, magari ci sentiamo domani mattina. Ciao, a risentirci. Ciao domani, vediamo un po' se è rientrato Balvino. Balvino!